La notte ti confonde, nel buio tutto trema. Allora abbracciami e vedrai che non ho più paura. Che non ho più paura. Sei nel sole, le parole nascono da lì. Ogni passo da una persiana e da una sigaretta si vede tutto, proprio tutto, anche le tue labbra, le occhiaie di chi lotta, di chi non sente resa, quelle di chi ha già preso un altro calcio sulla schiena. Siamo al telefono questa settimana con Davide dei Dagma Sonia, che diciamo, abbiamo deciso di intervistare perché è uscito da poco con un album molto interessante che a noi ha colpito molto, sia per le sonorità sia per i contenuti. Quindi abbiamo fatto questa intervista disco della settimana, un po' un mix delle nostre, dei nostri programmi, dei nostri contributi. Intanto benvenuto Davide. Buongiorno a tutti, piacere. Allora, noi parleremo un po' del vostro disco che è uscito pochissimo tempo fa. Il disco si chiama Interno 11 e a noi è piaciuto molto sia perché è un disco che passa da momenti aggressivi a momenti più meditativi, e questo lo dite anche voi, insomma, no? In 9 tracce avete detto: vogliamo mettere l'ascoltatore in contatto con le sue stesse emozioni, guidarlo in un viaggio all'interno dei suoi sentimenti. Ecco, ci racconti qualcosa di quest'album? Intanto abbiamo iniziato ad ascoltarlo con il singolo che ha anticipato l'uscita e che si chiama Nel Sole, però insomma vorrei scoprirlo un pochino meglio con te. Ma allora, come dici giustamente tu, questo disco è stato pensato come una sorta di appartamento, stanza, dove queste canzoni fanno parte un po' dell'arredamento, no? Però specialmente in alcuni brani ci sono degli spazi lasciati al potenziale ascoltatore, non sono diciamo completamente didascalici o autoreferenziali, no? In questo caso che posso essere io o Daniele, che è il chitarrista, che siamo quelli che fondamentalmente poi scriviamo i testi, ma abbiamo cercato di parlare di cose che sentissimo nostre, ma che potessero anche essere interpretate da terzi. E questo, secondo me, per chi avrà voglia di addentrarsi dentro proprio l'ascolto del disco, è penso un valore aggiunto. Ad accompagnare questa cosa qua ci sono anche le sonorità, effettivamente, perché si passa da momenti più aggressivi, rabbiosi se vogliamo, ad altri molto più distesi, vicini a quasi al cantautorato. Testimonia diversi stati d'animo che uno può provare dentro questa stanza, che poi in realtà, se vogliamo, una metafora della stanza del nostro, che contiene un po' il nostro io interiore, no? E questo è dovuto anche al fatto di quello che è stato vissuto l'anno scorso con il primo lockdown. L'album avete iniziato a lavorare all'album prima del lockdown o è stato proprio frutto? Abbiamo fatto i primi provini, che erano tipo i primi 3-4 brani, erano stati fatti prima del lockdown. In realtà poi è stato finalizzato quasi a distanza. E anche Interno 11 è metaforica come immagine, perché è l'interno dove abitiamo io e Daniele. Ok, quindi è un reale Interno 11, esiste davvero? È un reale Interno 11, esiste veramente l'Interno 11, dove fondamentalmente abbiamo scelto questo scambio di idee, di testi, di musica, e che poi insieme agli altri, Matteo e Marco, siamo riusciti a concretizzare in questo lavoro. Penso che tutti quanti siamo stati obbligati un po' a guardare dentro di noi, visto che fuori non si poteva andare, e quindi questo è stato un grosso stimolo anche a livello creativo, sicuramente. E rispetto al singolo, appunto, che anticipa l'uscita, perché avete scelto proprio quello? Cosa racconta in particolare di questo? Ma nel sole è fondamentalmente una via di mezzo tra una canzone pop, se vogliamo, in senso ampio, e d'amore, ma che al tempo stesso appunto sottolinea questo senso di distanza, dove non è detto che ci sia un avvicinamento. E anche lì, se uno legge bene il testo, può notare quanto magari questa canzone d'amore potrebbe anche essere rivolta fondamentalmente a una speranza o a se stessi, non per forza a una persona, perché questo elemento di presenza-assenza che fa, secondo me, fa un po' il paio con tutte le emozioni connesse che ognuno di noi ha vissuto nell'ultimo anno, vengono abbastanza esemplificati in un contesto che è più anche abbordabile a un ascoltatore che non è magari avvezzo a sonorità più dure, ma al tempo stesso può piacere anche infatti a chi è più un rockettaro e sente comunque una canzone che è potente nel significato e nella musica. Infatti, voi suonate anche un genere che adesso, diciamo, da qualche anno in particolare non è tra quelli mainstream, no? Non i generi che in realtà vengono ascoltati un po' di più. Quali sono le vostre ispirazioni in questo genere? Perché spesso quando si parla di musica si tende a dire questo gruppo assomiglia a, non parliamone in questi termini, ma quali sono invece gli ascolti che hanno influenzato sia Interno 11 ma in generale anche i vostri lavori precedenti? Ma allora, per quanto riguarda, io intanto sono entrato come cantante nel lavoro precedente, quindi Grattacieli di carta del 2019, che è un EP che ha segnato appunto un cambio di formazione, e da quel momento in poi diciamo che se ci si è aperti a sonorità anche più dure, perché alla fine siamo tutti più o meno rockettari, diciamo, all'interno della band, chi anche verso sonorità più estreme, no? Però abbiamo anche tutti quanti un animo più cantautorale e rivolto comunque alla tradizione italiana. Per quanto riguarda i Dagma, nel complesso sicuramente c'è da una parte un'ispirazione alla storia del cantautorato italiano, mentre sicuramente abbiamo tutti ascolti abbastanza esterofili per quanto riguarda il rock, ma anche italiani, tra band italiane storiche che sicuramente sono un'influenza, possiamo dire i Timoria e i primi Negramaro, ad esempio. Di band più recenti ci piacciono molto i Fast Animals and Slow Kids, piuttosto che i Pinguini Tattici Nucleari, cioè sono band che magari non sono vicine al nostro ascolto, ma apprezziamo molto per come si muovono, per quello che producono. Perfetto, ora adesso facciamo una piccola pausa perché ti chiedo che canzone vuoi far ascoltare alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori prima di continuare con le domande. Ok, allora direi In un attimo. Visto che abbiamo fatto il pezzo più pop prima, facciamo un pezzo più veloce e rockettaro adesso. Perfetto, adesso lo ascoltiamo allora. come maschere distorte ad espressione di un tempo senza limiti che tiene incollati i cocci di una pelle che rendeva uniti e chiuderà in un attimo questo momento in me. Nasconderà in un angolo quello che ancora c'è. Sei sempre quella che mi fa più male. Hai presente quando tu mi ripeti che andrai? Trovi un nuovo modo per mentire. Stavolta per favore non devi voltarti, ma salva un po' di quel che sta per svanire. Rinchiuso dentro un attimo questo universo in me, nascosti in fondo a un angolo, ricordi sparsi che di me, di te, questo momento in me. Torniamo dopo questo pezzo e io vorrei farti una domanda che inizialmente non avevo messo nella lista delle domande da farti, però mi è venuta questa curiosità. Perché Dagma Sogna? Da dove viene questo nome? Allora, Dagma nacque come unione delle iniziali dei nomi fondatori della band, quando nacque il progetto proprio, e si voleva cercare un nome femminile da abbinare ha una dimensione onirica, quindi Dagma Sogna è Dagma, fondamentalmente a oggi è un po' come se rappresentasse la nostra musa, cioè quella attraverso quella persona, quell'entità attraverso il quale gli elementi della band diciamo conferiscono l'onore e l'onere di divulgare poi le cose che scriviamo, quindi le nostre sensazioni, i pensieri e le nostre idee musicali, è il nostro tramite fondamentalmente. Perfetto, però la vostra storia diciamo inizia diversi anni fa, perché non è il primo album, questo lo ricordiamo, avete iniziato a suonare nel 2016 se non sbaglio. E, come sono cambiati i vostri lavori nel tempo e soprattutto quest'ultimo album, che differenze ha, come differisce dai lavori precedenti? Allora, lo storico è fatto di due album tra il 2016 e il 2018, sono i primi due lavori realizzati, diciamo, ufficiali del discorso ufficiale della band, con la vecchia formazione. Ed erano brani fondamentalmente orientati più sul pop cantautorale, con qualche incursione un po' più leggermente più rock, ma veramente molto più soft rispetto adesso. Dal 2019, quando c'è stato appunto questo cambio di formazione, sono subentrato io alla voce, abbiamo iniziato ad aprirci a sonorità un po' diverse, che fossero anche più nelle corde proprio della parte strumentale, degli strumentisti della band. Secondo è un album fondamentalmente indipendente, a tutti gli effetti, ma che ha visto la collaborazione di nomi illustri della scena comunque pop e alternativa italiana. Basti pensare che abbiamo registrato a Genova con Mattia Cominotto, che è stranoto per lavorare con Tra Leghi Ragazzi Morti, piuttosto che Meganoidi, piuttosto che Fede Dragogna dei Ministri, e il master l'ha fatto Giovanni Nebbia, che invece fa un po' da fil rouge per tutti i lavori, perché è la parte che ha sempre curato, peraltro in maniera eccellente, dal primo disco in poi, dei Dagma. E un'altra differenza è che rispetto al passato la formazione si è ridotta a 4 anziché 5, prima avevamo un tastierista interno, adesso abbiamo deciso di approcciare le canzoni più come una band, una classic rock band, proprio tutti gli effetti, a cui poi abbiamo aggiunto un primo livello di arrangiamento con Simone Campete, che è un tastierista di Alessandria, che vanta collaborazioni anche con Jordan Rudess di Dream Theater, quindi nomi internazionali, che ha dato un apporto veramente significativo per quanto riguarda la stesura delle parti elettroniche e tastieristiche, che appunto salutiamo e ringraziamo. E quindi queste sono state le grosse differenze. Perfetto, insomma, tante presenze intorno a Interno 11, esatto. O dentro a Interno 11, ecco, forse. Dentro Interno 11, esatto. Diciamo che è abbastanza affollato come interno. Infatti sì, la musica è cambiata tanto in quest'ultimo anno, insomma, sia appunto nella creazione che... E anche un'altra parte è cambiata molto, cioè la parte dei live. È un anno che siamo senza concerti, pochi giorni fa c'è stata anche la manifestazione, l'evento, l'ultimo concerto, e quindi insomma è stato un anno davvero molto pesante per il settore musicale. Ecco, voi come vi approcciate a questa mancanza di live, insomma, come ha influito sulla vostra musica? Ma allora, quando è iniziato il primo lockdown è stata una brutta batosta, perché avevamo l'ultima parte di promozione del tour dell'album precedente, del disco precedente, che ci avrebbe portato in regioni dove non eravamo ancora stati. Avevamo un tour acustico, perché noi abbiamo anche questa cosa dove promuoviamo le nostre canzoni, almeno abbiamo promosso fino all'ultimo lavoro, sia in formazione full band in elettrico, sia anche in versione acustica, che peraltro ci ha dato anche delle soddisfazioni interessanti come proposta. Avevamo organizzato un mini tour che ci avrebbe portato fino in Calabria in acustico, io e il chitarrista, e solo che appunto è stato giorno dopo giorno ci siamo trovati a dover annullare date, annullare prenotazioni, alberghi da far saltare, capire se c'erano le tempistiche per rischedulare tutto, invece era meglio lasciar perdere. E la cosa è brutta, perché quando poi non conosci, cioè qualcuno ti chiama, ti contatta per una data e non ci si conosce prima, non c'è quel rapporto fiduciario magari che dura negli anni, dove dice vabbè dai, la facciamo un'altra volta. Purtroppo sono quasi sempre occasioni perse, che non sai quando ti verranno ridate, quindi quella è stata una grossa batosta subito, però al tempo stesso eravamo consapevoli che dovevamo portare avanti i lavori per il disco nuovo, e quindi è durato più o meno 2-3 settimane di sconforto, però in realtà poi ci siamo subito rimboccati le maniche e ci siamo messi a capire come poter sfruttare in realtà il tempo che avevamo al meglio, e credo che alla fine ci abbiamo fatto da quel punto di vista lì. Quindi nel casino, secondo me, siamo riusciti quantomeno a tirare fuori qualcosa di positivo. A oggi qualcosa sappiamo che si sta muovendo sul fronte live, soprattutto da fine marzo in poi, però certezze di tornare vagamente come era prima sono molto lontane, insomma. Sono molto lontane, insomma. Qualcosa probabilmente si potrà fare, però insomma non si sa ancora come. Non si sa ancora niente. Ovviamente. Noi speriamo sempre. Io ti volevo fare un'altra domanda che riguardava invece i contenuti di Interno 11, perché in particolare dopo aver ascoltato e soprattutto letto la cartella stampa, no, che ci racconta un po' di quest'album, c'è stato un tema che ci è molto caro, insomma, in cui noi ci ritroviamo molto, che è il tema dell'adultità, della vita post 30, insomma, no? Come l'avete affrontato questo tema, e perché appunto è sempre un argomento molto delicato, e soprattutto in questi anni in molti lavori, sia musicali sia poi anche cinematografici, viene raccontato questo passaggio dall'essere adolescenti, adulti in un qualche modo, ecco. Sì, diciamo che è iniziato un po' tutto con la fine dei 20 anni di Motta. Un bellissimo progetto, album. No? Sì, no, tra l'altro lui è fantastico, secondo me. Nella scena dei cantautori più contemporanei, secondo me, per me è uno dei miei preferiti. E, per quanto riguarda noi, beh, diciamo che è una cosa che ci riguarda, per questioni prettamente anagrafiche, ci riguarda tutti quanti. E poi secondo me è anche messo in luce da diverse sensazioni che ognuno poi può provare. Io, per quanto riguarda Interno 11, penso che ci siano due brani che possono essere ricondotti un pochettino a questa dimensione, che sono Inverno e Supereroi, per motivi diversi. Inverno più perché credo sia una questione di dove la dicotomia disillusione speranza la fa da padrona, ed è più rivolta appunto a quelli agli over 30 che sognavano il grunge e Seattle negli anni 90, e mentre Supereroi è un altro brano che secondo me è dedicata a una fase della maturità nuova delle persone, ma anche alla consapevolezza di chi è venuto prima di te, quindi alla figura genitoriale, che fondamentalmente nei momenti di sconforto alla fine sono poi loro i veri supereroi, gli eroi che riescono magari a tirarti fuori dal magagne in un modo o nell'altro. Quindi abbiamo affrontato forse questo tema da due punti di vista, uno più generazionale, esistenzialista, e uno più emotivo, se vogliamo. Perfetto, allora io ti ringrazio tantissimo per questa intervista e per aver risposto alle nostre domande, e ti chiederei invece con quale brano vogliamo chiudere questa chiacchierata, e se mi spieghi anche il perché magari l'hai scelto. Ma chiederei di passare Inverno, proprio visto che ne abbiamo parlato adesso, un po' perché forse è il brano del disco a cui sono più affezionato, perché ci ho messo molto, molto del mio, ma poi perché appunto anche il significato che rappresenta dà comunque speranza ed energia, a me personalmente piace, quindi vi lascerei con Inverno. Perfetto, allora adesso ci ascoltiamo questo brano. Io ti ringrazio tantissimo per essere stato con noi su Radio Città Fujiko, e speriamo di vederti molto presto. No, speriamo sì, assolutamente. Vi veniamo a trovare, guarda, anche senza suonare. Perfetto, passate così in radio a venirci a fare un saluto. Esatto, veniamo a fare un saluto, portiamo un po' di focaccia, un po' di pesto e via. Allora quando volete, guarda. Va bene, grazie mille e buon lavoro. Ciao. Grazie a voi. Ciao. L'inverno è sceso lento su di noi e sulla giraia. La mia generazione senza eroi è all'imbrunire. Privado. spenti.